vedo il Calvario dove Gesù sanguinò e morì per me. Le sue ferite, le mani e i piedi al legno appesi, oh mio Gesù. Il tuo corpo segnato e pianto fu deposto poco lontano in quella tomba. Tu eri chiuso, il Messia rimasto solo. Si allode al nome del nostro Dio, si allode al Santissimo. Per sempre noi canteremo a te, Signore, sei il nostro Dio. Il terzo giorno, un'alba nuova, tu sei risorto, figlio del cielo, dove o morte il tuo potere, gli angeli festa per Cristo Re. Risorgerò faccia a faccia, io ti vedrò.